quale ci farà vedere alcuni cambiamenti che ha portato legislativamente la legge Basaglia e alcune problematiche che sono emerse poi nel tempo dopo il mutamento legislativo. Lascio subito la parola. Mi sentite bene? Ho urlato tutti i giorni con i matti, quindi non so se avrò dei cali di voce. Mi presento, mi chiamo Silvio Alessandro, sono psichiatra, al momento attuale sono responsabile del centro salute mentale di Spoleto della ASL numero 3. Sono contento, molto contento e anche un po' emozionato a parlarvi perché credo che queste occasioni per noi che ci occupiamo di psichiatria sono estremamente importanti. Anche perché in genere si parla di psichiatria soltanto nel modo più deteriore, sull'onda delle emergenze, sull'onda di negligenza. Sull'onda di fatti di sangue e sempre più spesso, almeno non è pienamente dentro, si tende a in qualche maniera a restringere l'ambito degli interventi della psichiatria, degli psichiatri, soprattutto nelle strutture pubbliche, a forme di controllo sociale. Vi assicuro che non è così e cercherò di darvene in qualche maniera ragione di questa cosa. Sono contento e sono emozionato anche perché le pagine più belle riguardo alla mente, alla coscienza, eccetera, sono state scritte dai filosofi, non l'hanno scritto gli psichiatri. Tanti filosofi, la gran parte dei filosofi si sono veramente interessati ai problemi della conoscenza, ai problemi della mente, dei problemi della natura, dei rapporti tra le persone, e a partire da Aristotele, passando per Kant, passando per Wittgenstein, eccetera, hanno scritto cose estremamente importanti nel nostro lavoro. E la prima avvertenza è proprio questa, nel senso che in tantissime discipline hanno scritto del funzionamento della mente. Ma c'è una disciplina, che è la psichiatria, per certi versi attualmente anche la psicologia, che si occupa della mente malata. E per anticipare una delle critiche mie personali, di una parte della psichiatria italiana alla pur straordinaria legge Basaglia, e non tanto a lui, perché Basaglia era un clinico estremamente accorto, ma dietro Basaglia c'era stato tutto quel movimento della cosiddetta antipsichiatria, che non era un movimento antimanicomiale, era proprio un movimento antipsichiatrico, che negava la realtà della malattia mentale. Credo che questo atteggiamento abbia procurato tanti danni e continui in qualche misura a procurarne ancora. Per chiarire il mio pensiero, le intersezioni, le sovrapposizioni tra le diverse scienze sono e devono essere molteplici e feconde. Però nei riguardi della malattia mentale, in particolar modo della malattia mentale grave, nessun'altra disciplina, secondo me, deve o può surrogare lo specifico della psichiatria. Attualmente la particolarità della psichiatria deriva, secondo me, da due condizioni fondamentali. Una è che noi psichiatri siamo i curanti e i portavoce dei nostri malati. Mi diceva il vostro collega che la prossima volta avrete probabilmente l'associazione dei familiari, una delle prossime volte, l'associazione dei familiari e probabilmente anche qualche paziente. Però, come vedete, quando si parla di psichiatria, quando si parla di malattia mentale grave, è difficile, molto difficile, sempre più difficile, che i pazienti possano esprimere il loro giudizio. Questo perché la malattia mentale grave, diversamente da tutte le altre malattie, che in qualche maniera compattano, no? Il gruppo socio-relazionale di riferimento, la malattia mentale lo svolta. Un malato mentale grave si trova in una situazione di tale difficoltà, magari provenendo anche da famiglie problematiche o multiproblematiche, come si dice, per cui quando si determina un problema psicopatologico di una certa rilevanza, il gruppo socio-relazionale di riferimento si sfalda, il malato in genere perde il lavoro, il malato in genere smette di andare a scuola, il malato in genere perde capacità contrattuale, perde contrattualità sociale e quindi di fatto si trova piuttosto scheletrico nei confronti del resto della società. Un'altra, alla quale accennavamo prima, l'altra delle condizioni, a mio modo, indicative delle difficoltà nelle quali si muove la psichiatria, è rappresentata dal fatto che in psichiatria, diversamente che in tutte le altre scienze mediche, si sovrappongono due mandati. L'obbligo della cura, noi siamo come medici deontologicamente obbligati. Abbiamo una obbligazione di mezzi nei confronti dei nostri pazienti e non di risultato, ma siamo obbligati. E il mandato sociale, che continua a essere invece imperniato sulla tematica del controllo e soprattutto sulla predizione del comportamento. Voi capite che questo è complicato, perché laddove, come dire, la cura nella nostra accezione richiede fantasia, richiede improvvisazione, richiede solidarietà, richiede il rischio, no? Richiede dalle cose minime. Io vi parlo, siccome lavoro proprio sul campo, se riusciamo a parlare di temi generali sono contento, ma vi vorrei rappresentare quella che è poi anche la realtà spiccio, la patente di guida, il porto d'armi per un paziente che ama andare a caccia. Sono tutte queste apparenti banalità che finiscono per collassare tutte quante sul sistema delle cure psichiatriche, a creare costantemente conflitti tra queste due istanze fondamentali, l'obbligo della cura e l'altra istanza fondamentale proveniente dalla società. La società ci chiede: controllalo, stai attento che non faccia niente, e soprattutto cerca di capire se la sua malattia lo espone a rischi per sé o per le persone che gli stanno intorno. Questa questione del controllo sociale, che a noi sembra vecchissima, è giovane quanto è giovane la psichiatria. La psichiatria come disciplina autonoma, e questa è una delle poche cose sulle quali quasi tutti gli psichiatri sono d'accordo, è nata nelle aule dei tribunali a seguito della Rivoluzione francese. Prima non c'era nulla che potesse configurarsi in questa idea. E vi dirò di più, probabilmente lo sapete, ma per tutta l'età classica la follia era impensabile come concetto, in quanto era un qualcosa che apparteneva al sovrannaturale, rappresentava l'incontro con gli dèi, l'incontro con il sublime, l'incontro con gli inferi, nel peggiore o nel migliore dei casi. Per un ateniese l'agitazione psicomotoria, la mania, il delirio, le allucinazioni non erano sintomi rivelatori di malattie, erano segni dell'incontro con il divino, di cui soltanto alcuni privilegiati potevano farsi interpreti. Per cui chi aveva queste manifestazioni spesso nell'età classica godeva accanto alle sue sofferenze, ma di una considerazione e di uno status sociale, di un qualche rispetto, in quanto si riteneva che proprio in quanto portatore di quelle manifestazioni avesse un accesso privilegiato con il sovrannaturale. L'unica malattia psichiatrica nell'antica Grecia era la depressione, ma la depressione di un tipo particolare, quella che per fortuna oggi si vede raramente, quella che anticamente si chiamava melancolia e che poi è diventata melanconia, e che tradotto letteralmente vuol dire bile nera. Era una malattia, come dire, assimilabile in tutto e per tutto alla nostra depressione maggiore grave con sintomi psicotici, ma era interpretata come una malattia fisica. Il termine bile nera sta a indicare appunto una contaminazione da parte dei secreti del fegato nel sangue, quindi la bile che in qualche maniera entrava nel sangue e determinava questo sconvolgimento della personalità. Anche nelle epoche successive, scusate se è un volo d'angelo, poi magari ne proviamo a parlarne se ci sono delle cose che suscitano il vostro interesse, però intendevo darvi più una panoramica che affrontare da questo punto di vista i singoli passaggi. Nelle epoche successive, a rigor di termini, non potevano esistere malattie della mente, in quanto il concetto della mente è un concetto piuttosto recente. Si trattava più che altro di malattie dello spirito, di malattie dell'anima. Ancora, parliamo della storia europea, fino a tutto il 1700 queste malattie attenevano alla sfera del metafisico e nel mondo occidentale in particolare alla sfera religiosa. Ai preti generalmente spettava la diagnosi e la cura, perché la prima cosa che bisognava fare laddove c'erano fenomeni grossolani di agitazione psicomotoria, esaltazioni maniacali, eccetera, voi capite bene che bisognava escludere l'intervento diretto del demonio. Quindi venivano queste persone sottoposte a pratiche religiose di esorcismo. E inoltre, l'altra cosa importante è che fino alla rivoluzione francese, cioè fino all'Ottocento avanzato, in un sistema che non prevedeva assolutamente nessuna forma di garanzia dal punto di vista della protezione sociale e dell'assistenza, la follia, le malattie di mente grave, so che qualcuno vi ha parlato di Foucault, che è il massimo studioso di queste, è stato più acuto studioso di questa storia della follia. La follia finiva sempre per coincidere con la miseria, con l'emarginazione, con la totale esclusione sociale, per cui possiamo dire che alla fine l'essere folli in parte era una salvaguardia, ma sicuramente era il minore dei problemi che finivano per affliggere queste persone. Dicevamo prima, e questo è un punto secondo me abbastanza curioso e che secondo me non è stato mai analizzato fino in fondo la sua portata, che il problema della follia si pone seriamente, ma soprattutto si pone scientificamente per la prima volta nelle aule dei tribunali dell'Europa dell'Ottocento. E Carlo Manuali era assolutamente convinto, e io con lui, che il problema della follia sia sorto all'interno del discorso giudiziario. Infatti, a quel punto, in un mondo che aveva preso con l'urbanizzazione l'imminente rivoluzione industriale, per la prima volta si dava una costruzione sociale che prevedeva, no? Salti di classe, quindi era un mondo che era ferocemente accelerato, era un mondo in cui, diversamente che da tutte le epoche precedenti, si poneva la questione da parte dei tribunali non solo di esercitare un controllo sull'azione, ma anche di proteggere la libertà e l'autonomia dell'azione. Quindi, per la prima volta, questi tribunali, che erano tribunali laici, erano tribunali civili, si trovarono con la necessità di sostituire, rispetto ai tribunali ecclesiastici, i tribunali ecclesiastici si occupavano fondamentalmente della conformità del comportamento alle leggi divine, no? Ai comandamenti. Quindi esercitavano soltanto una funzione di controllo di conformità rispetto alle leggi divine. I tribunali laici, i tribunali civili, si trovarono di fronte alla necessità di un doppio controllo, questo, cioè di conformità alle leggi dello Stato, ma anche di legittimità, per cui non avevano soltanto la necessità di proteggere rispetto all'azione, ma dovevano anche garantire l'azione, e questo è un compito estremamente più complicato. Voi capite bene che laddove questa impostazione sia presa sul serio, il folle paralizza il sistema, il matto paralizza completamente il sistema, perché non è assimilabile, non è giudicabile né sulla base del primo principio né sulla base del secondo principio. Qui si pone seriamente il problema scientifico della psichiatria, che in forza delle sue conoscenze deve decidere circa l'imputabilità del singolo. Una volta che il tribunale è strutturato secondo questo doppio binario, se arriva un matto dentro il tribunale e non arriva uno psichiatra che scientificamente dica questo è matto, me lo prendo io, quindi lo sottraggo all'iter al quale sono sottoposti tutti quanti gli altri, la giustizia non può funzionare, per essere giusta non può funzionare. Quindi il problema della imputabilità in tribunali e in sistemi legislativi congegnati in questo modo diventa centrale, perché si possa parlare di diritto. E quindi è stata la giurisprudenza che in qualche maniera ha chiesto alla psichiatria di essere scienza, in quanto gli chiedeva dei criteri in qualche maniera ripetibili per dire questo lo potete processare, questo me lo prendo io, non lo potete processare perché è matto. E infatti, in relazione a questa primogenitura, il mandato originario della psichiatria era un mandato di controllo, nel senso che andava in tribunale, si prendeva il personaggio indiziato di essere matto e diceva lo guardo io, lo tengo io, perché questa è una persona malata e i medici devono farsi carico di questa situazione. Da qui nasce la cosiddetta condizione asilare. Per cui, accettando integralmente questo mandato, lo psichiatra si fa garante, in base a una presupposizione scientifica, non della malattia, ma del controllo, e quindi si fa garante dei rapporti tra l'individuo malato e il resto della società, in forza non di conoscenze che gli appartengono e gli appartenevano in quanto medico, ma in forza delle aspettative della società, della prevedibilità del comportamento e della predittività del comportamento. Ci siamo? Fermatemi quando volete, se ci sono questioni da chiarire, perché penso che non sia semplicissimo. Se voi leggete le cartelle cliniche del manicomio, una bellissima ricerca antropologica, credo che qualcuno l'abbia già fatta, sono fondamentalmente delle cartelle di polizia, cioè le annotazioni fatte dai medici, le annotazioni fatte dagli infermieri, sono delle osservazioni circa il comportamento delle persone, agitato, disorientato, aggressivo, sospettoso, violento, inaccessibile al colloquio, eccetera, eccetera, eccetera. E sono tutti termini che hanno una fortissima carica, una fortissima valenza di tipo moralistico. E questi sono quelli, diciamo, il complesso delle condizioni, per così dire, negative, che ho voluto in qualche maniera anticiparvi. Però vi voglio dire anche che io sono orgogliosissimo del mestiere che faccio, sono orgogliosissimo della storia della psichiatria e penso anche che nell'Ottocento gli ospedali per le malattie generali, soprattutto gli ospedali dei poveri, gli asili, non è che fossero dei club mediterranei, c'erano posti dove comunque le possibilità terapeutiche erano molto scarse, dove quasi invariabilmente si finiva per morire di malattie infettive acute, e che quindi tutto sommato questo intervento della medicina e questo riconoscimento della malattia mentale in un'epoca in cui ovviamente non c'erano strumenti per poter curare le persone, comunque ha rappresentato un grandissimo passo dal punto di vista della crescita delle scienze e ha cominciato a porre una serie di problemi i cui risultati cominciano a vedersi oggi. E intendiamoci anche su un'altra cosa. Spesso la psichiatria è stata tacciata, no, di pratiche inumane, la contenzione, l'elettroshock, quella cosa mostruosa che è stata la lobotomia da parte di un certo Freeman, che probabilmente se gliel'avessero fatta a lui avrebbero fatto meglio. Però è anche vero, e credo che tutti quanti voi ne siate a conoscenza, che la medicina è l'ospedale, i diversi reparti dell'ospedale sono un luogo di lacrime e sangue, gli interventi chirurgici, gli interventi ortopedici, gli interventi di amputazione, la chemioterapia, la radioterapia, sono tutte lesioni che in qualche maniera i medici, diciamo, a fin di bene fanno al pubblico sofferente e anche a noi stessi. Da questo punto di vista penso che in qualche maniera noi ci dobbiamo liberare, noi come psichiatria, di questo aspetto, di questa sorta di peccato originale. E penso di più, penso che la psichiatria ha funzionato da apripista per molte altre discipline, per il complesso delle discipline mediche, in funzione di una progressiva umanizzazione. E che anche che soprattutto le più recenti determinazioni in ambito deontologico, che al momento attuale strutturano e normano la legittimità dell'agire medico, a mio modo di vedere sono germinate in ambito psichiatrico. Del resto, ancora oggi in ospedale generale, nelle cliniche universitarie, eccetera, quando ci sono problemi, per esempio relativamente al consenso, i colleghi chiamano il psichiatra. Cioè, se io vado in ospedale, mi riscontrano una malattia serio e dico non voglio essere curato, non è che i medici, il paziente non vuole essere curato, firma la cartella, arrivederci, chiamano il psichiatra per vedere se è sano di mente, cioè se questa negazione del consenso in qualche maniera da parte loro è accettabile. Ancora più grave secondo me è che spesso questo consenso, questa legittimazione del consenso la chiedono anche per persone che protestano confessioni religiose particolari, per cui per esempio un testimone di Geova che rifiuti la trasfusione di sangue, facilissimo che dal pronto soccorso arrivi una richiesta di consulenza per la psichiatria per vedere se quello è testimone di Geova oppure no. Allora, questa è una cosa che mi interessa particolarmente. Vi ho portato un documento, dopo ve lo lascio, se a qualcuno interessa se lo può fotocopiare, che si intitola Carta della professionalità medica. Non è nato in un istituto di psichiatria, di antropologia, eccetera, eccetera, eccetera, ma questo documento è sotto all'interno degli istituti di medicina interna del mondo anglosassone, abbastanza recente, è stato pubblicato sul Lancet, che è la Bibbia della biomedicina, nel 2002. E dal 2002 sta ottenendo sempre più adesioni da parte degli ordini professionali e delle società scientifiche dei diversi stati europei. È molto curioso che questo documento, redatto in stile anglosassone, un preambolo, tre principi fondamentali e 10 raccomandazioni, sotto forma di responsabilità professionale, di fatto disegna un essere umano e un rapporto tra mondo della medicina e mondo dei pazienti che, secondo me, è germinato, si è formato all'interno delle problematiche che sono proprie della psichiatria. Preambolo. La professionalità è la base del contratto tra medicina e società, cioè la società come medici ci chiede di essere professionali. Su questo potremmo aprire un discorso di 3 giorni, però di fatto loro dicono così. Essa impegna il medico ad anteporre ai suoi gli interessi dei pazienti, a fissare e mantenere standard di competenza e integrità, a offrire alla società consulenza esperta su questioni di salute. I principi e le responsabilità della professionalità medica devono essere ben chiari sia alla professione sia alla società. Essenziale al contratto è la fiducia del pubblico nei medici, la quale dipende dall'integrità dei singoli individui e dell'intera categoria. Eccetera, eccetera. Questo è il preambolo in cui, dal quale mi interessa sottolineare una frase. Tenendo presente che è un documento di Londra, di Berlino, di Harvard, sebbene in tutto il mondo la professione medica sia integrata nelle diverse culture e tradizioni nazionali, i suoi membri condividono il ruolo di guaritori, le cui origini risalgono a Ippocrate. Quindi, in qualche maniera, in questo documento, i clinici medici anglosassoni rivendicano per sé come attributo fondamentale per la fiducia da parte della società un ruolo di guaritori. Quindi non si dice siamo scienziati, siamo guaritori, noi abbiamo a che fare con la malattia e la società si deve fidare di noi in quanto guaritori, non in quanto scienziati. E va bene. I 3 principi fondamentali, io penso che sono i principi con i quali la psichiatria, e soprattutto la psichiatria rinnovata, si sta sbattendo da 30 anni, cercando di fornire, laddove è possibile, un sistema di cure adeguato ai suoi pazienti. I 3 principi fondamentali sono il principio della centralità del benessere dei pazienti. Questo principio si basa sull'impegno ad operare nell'interesse del paziente. L'altruismo alimenta la fiducia che svolge un ruolo chiave nella relazione medico-paziente. Pertanto, le forze di mercato, le pressioni sociali e le esigenze amministrative non devono compromettere questo principio. È una banalità, però pensate quanto è vincolante. E quanto è vincolante soprattutto rispetto alle cose che noi dicevamo prima, della sovrapposizione tra l'obbligo della cura e il mandato societario del controllo. Cioè, in ogni caso, in questo ambito viene ribadito che i medici sono garanti del sistema delle cure, non del controllo sociale. Il secondo, il principio dell'autonomia dei pazienti. I medici devono rispettare l'autonomia dei pazienti fornendo loro, in completa onestà, le conoscenze necessarie per poter prendere decisioni informate riguardo al trattamento. Le scelte dei pazienti devono essere rispettate, a meno che queste non siano in disaccordo con la pratica etica ed implichino richieste di trattamento inappropriato. Ora, è una banalità, ma pensate a questo principio dell'autonomia dei pazienti trasferito in ambito psichiatrico, soprattutto in ambito delle malattie mentali gravi. Pensate a un medico che si trova di fronte a un paziente in stato di grave agitazione psicomotoria o un paziente delirante che rifiuta le cure. Allora vi rendete conto di quanto su questa questione del consenso informato la psichiatria in qualche maniera, con questa questione la psichiatria ha dovuto fare i conti, perché il consenso informato, mentre in ospedale generalmente si firma una carta e in qualche maniera il consenso viene recepito dall'equipe dei curanti, per quanto ci riguarda il consenso da parte dei nostri pazienti è questione quotidiana da affrontare giorno per giorno, per i cambiamenti terapeutici, i cambiamenti in relazione all'andamento della patologia, i cambiamenti in relazione a quelle che sono le necessità della malattia in quel momento. E la cosa tipica della psichiatria rinnovata, l'accanimento della psichiatria rinnovata, almeno fino a oggi, è stato l'accanimento contro la cronicità. Quindi il fatto di la cronicità, cioè evitare forme di cronicizzazione, evitare un utilizzo di farmaci che in qualche maniera bloccavano i pazienti come stato di disagio. Mantenere, rivalutare la possibilità di continui episodi acuti, in quanto all'interno di quegli episodi acuti, tali da non destrutturare il paziente, ci potevano essere dei germi utili per un processo terapeutico. Il principio terzo e ultimo della giustizia sociale. La professione medica è tenuta a promuovere la giustizia all'interno del sistema sanitario, ivi inclusa l'equa distribuzione delle risorse disponibili. I medici dovrebbero impegnarsi attivamente affinché in ambito sanitario venga eliminata qualsiasi forma di discriminazione, sia essa basata su razza, genere, condizione socio-economica, religione o qualsiasi altra categoria sociale. La categoria sociale dei matti è una categoria sociale importante. Vi dicevo prima, noi dobbiamo funzionare un po' da portavoce. Vi assicuro che molto anche per la incapacità, perché noi psichiatri pensiamo sempre di fare i creativi, i filosofi, quelli che capiscono eccetera, e quelli che non sanno nulla di matematica, quelli che non sanno nulla di economia e di amministrazione. Gli amministratori si accorgono di questo, poi noi psichiatri litighiamo tra noi, è difficile che andiamo a parlare con l'assessore, siamo tutti quanti belli compatti dicendo guardate ci serve questo, questo e questo. C'è uno che dice una cosa, uno che dice un'altra, finisce che non prendiamo nulla. E attualmente la psichiatria italiana si trova una montagna di problemi e la metà del budget delle altre democrazie occidentali. Per cui, mentre l'Inghilterra stanzia per quanto riguarda le problematiche psichiatriche il 10% del budget totale assegnato alla sanità, che è il doppio di quello italiano, più o meno a parità di pubblico, noi ci muoviamo sul 3,5%, e quindi con un problema anche strutturale, perché per quanto ci riguarda il nostro budget è costituito fondamentalmente da personale e da strutture adeguate. Quindi se manca il personale e manca una struttura adeguata, ha voglia a pensare di fare la psichiatria rinnovata. Occorrono anche dei luoghi dignitosi di ricovero. A Perugia per una serie di ragioni infinite, storiche, cliniche, politiche, eccetera, eccetera, il reparto psichiatrico sta a Villa Massari. L'ospedale Santa Maria delle Fratte sta, come si chiama? Santa Maria delle Fratte. Se uno dei pazienti ricoverati nel servizio psichiatrico ha un attacco di cuore, arriva in ospedale dopo un'ora, un'ora e mezza. Da Monteluce hanno trasportato giù anche i topi del laboratorio della psichiatria dell'università, ma non hanno spostato il reparto psichiatrico. Vi dirò di più, hanno spostato il CERT. Nella classifica della spazzatura della medicina, il CERT ci stava, era l'unico che ci stava un po' sotto. La spazzatura della medicina in genere era la psichiatria e poi sotto c'era il CERT. In questa situazione il CERT è andato giù, il reparto psichiatrico è ancora a Monteluce. E questo secondo me è un problema politico serio, perché noi non abbiamo, come psichiatria, non abbiamo bisogno di tecnologia medica. Abbiamo bisogno di luoghi belli, aperti, non abbiamo bisogno di strutture, diciamo, tecnologiche. Però, se ne abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno al massimo livello e nel giro di pochi minuti. Nel senso che se un psichiatra chiama l'ospedale, in genere lo chiama per un arresto cardiaco dovuto a farmaci, lo chiama per problemi cerebrovascolari acuti, eccetera. Quindi lì o si interviene nel giro di 10 minuti oppure non si interviene. Quindi dal punto di vista proprio della civiltà della cura, io credo che il reinserimento della psichiatria in ospedale generale sia un fatto assolutamente preminente e prioritario, anche perché mi spaventa un po' questa dislocazione, no? In fondo il manicomio cos'era? Un ospedale, però era un ospedale separato rispetto all'ospedale generale. Detto questo, come cornice in qualche modo generale, dell'argomento, possiamo pensare un po', nello specifico, dal punto di vista normativo, legislativo e organizzativo, a quella che è stata l'evoluzione della situazione italiana. Fino al 1970, la situazione psichiatrica italiana era normata dal codice Rocco e la struttura terapeutica era rappresentata sostanzialmente da stabilimenti manicomiali ai quali si poteva accedere volontariamente, più spesso si accedeva obbligatoriamente su indicazione del questore, del prefetto, del podestà in epoca fascista. Importante è anche la nozione che se il direttore del manicomio faceva entrare volontariamente qualcuno in manicomio, cioè quindi se io andavo al manicomio e mi ricoveravo, il direttore del manicomio era obbligato a trasmettere il mio nome all'autorità di pubblica sicurezza. Quindi, rispetto alla prima parte del nostro ragionamento, capite bene quanto autorità giudiziaria, sistema di controllo sociale e il sistema curante fossero strettamente legati. La situazione della psichiatria si caratterizzava in Italia a quell'epoca in quanto statica e repressiva. Ed era inoltre un luogo estremamente costoso. Questa è una parte che viene in genere sottaciuta, ma Poco prima della chiusura dell'ospedale psichiatrico di Perugia, soltanto a Perugia c'erano 1200 ricoverati, 1200, e circa 2000 dipendenti. Il direttore del manicomio era una sorta di re all'interno di queste mura. Pagava i suoi dipendenti cash uno per uno, facendoli andare nel suo studio e decidendo di volta in volta quanto gli dava, quanto si erano meritati e quanto. Nel manicomio di Perugia c'era una fiorente industria di allevamento di maiali, alla quale i pazienti spesso erano adibiti. C'era in uno dei posti peraltro più belli della città, lo conoscete, il Parco di Santa Margherita, un posto meraviglioso. C'erano coltivazioni di ogni genere e tipo che nella gran parte servivano per la tavola del direttore manicomio. Era un posto nel quale io mi ci sono imbattuto all'inizio della mia carriera perché era in dismissione. E quindi ho visto, non so se per fortuna o per sfortuna poco, forse aver visto qualcosa in più sarebbe stato più istruttivo relativamente alla degenerazione delle pratiche terapeutiche. Era un posto nel quale se si portava un bambino di 6 anni perché era iperattivo e creava problemi ai genitori, questo bambino, io l'ho conosciuto, che ne aveva 63. E non era mai uscito dalle mura del manicomio. Era un posto dove se un malato agitato, che non poteva parlare, mordeva, gli venivano tagliati tutti i denti. Era un posto dove se un malato agitato, eccetera, era inavvicinabile, gli sparavano addosso oggetti con i tubi, con le pompe, getti di acqua ghiacciata da un buco della cella. Era un posto dove se i malati erano aggressivi, gli versavano sempre da questo buco della cella il brodo per terra e poi lui se lo doveva andare a prendere per terra. Questa era soprattutto la situazione dei manicomi dell'ultimo periodo, che erano anche degenerati dal punto di vista, secondo me anche dal punto di vista antropologico, perché erano assolutamente, cioè garantirono solo ed esclusivamente, servivano solo ed esclusivamente a garantire il controllo sociale. Se noi andiamo a vedere quelli che sono stati i capisaldi della legge 180, vediamo che essa risente fortemente con la necessità di tagliare con questa tradizione. Cioè queste pratiche erano costosissime, perché in Umbria era pieno di manicomi, c'era il manicomio a Perugia che era il più grosso, ma c'era il manicomio a Orvieto, c'era il manicomio a Spoleto, credo che ce ne fosse anche un altro, non mi ricordo dov'era. Quindi alla fine si trattava di 2.000-2.500 persone che venivano internate per anni, quindi anche dal punto di vista della spesa, era una spesa altissima. E molti storici dicono che una delle ragioni fondamentali per cui l'Italia del 70 c'è stata questa accelerazione e nessuno si è permesso di in qualche maniera intralciare più di tanto l'iter di questa legge sia stato biecamente un fatto economico, perché i costi erano diventati assolutamente insostenibile. Comunque, sul piano ideologico, i capisaldi della legge 180 erano rappresentati: 1. Progressivo smantellamento e chiusura di tutti gli ospedali psichiatrici pubblici. Voi capite che è una legge che dice, non dice tanto, al primo punto, non tanto quello che si deve fare, ma quello che si deve chiudere, la dice abbastanza lunga. Blocco immediato dei ricoveri, istituzione di reparti psichiatrici per degenze brevi negli ospedali generali, organizzazione territoriale dell'assistenza, maggiori garanzie nel restringere gli interventi d'autorità laddove vi sia un disturbo mentale di gravità tale da impedire a chi ne sia affetto scelte consapevoli e che quindi lo possano porre in serio rischio per quanto riguarda la sua integrità fisica e eventualmente quella degli altri. L'ultimo ed importantissimo aspetto della legge 180 è che il ricovero obbligatorio veniva sottratto all'autorità giudiziaria, con la nuova legge diventava appannaggio del sindaco nella sua veste di autorità civile e di massimo rappresentante della sanità pubblica in un determinato comune. Voi sapete com'è la procedura attuale del trattamento sanitario obbligatorio? È un processo abbastanza lungo che può creare problemi tra quando se ne pone la necessità e quando poi realmente viene effettuato. Ma è che in qualche maniera però si paga questo, cioè questo prezzo si paga in funzione di una enorme garanzia nei confronti dei pazienti. Perché per effettuare un trattamento sanitario obbligatorio, cioè un ricovero in regime di degenza ospedaliera contro la volontà di una persona o quando non sia possibile ottenerne il suo consenso, occorre la visita di un primo medico che lo propone, la visita di un secondo medico che lo conferma, questi due con dei certificati appositi. Questi due certificati vengono consegnati dalla psichiatria ai vigili urbani che rintracciano il sindaco o un suo delegato, un assessore, che deve vagliare la conformità della certificazione e può anche verificare anche compiti eventuali, se vuole, di verifica per vedere se effettivamente ci sono, ricorrono queste condizioni. Dopodiché, questi due certificati, con questi due certificati il sindaco emette un'ordinanza. A quel punto partono gli infermieri del 118, gli infermieri del centro di salute mentale e i vigili urbani, eventualmente coadiuvati dalle altre forze di polizia, perché poi nel nostro mestiere ci imbattiamo in persone agitate con fucili, persone con la, cioè quindi persone che stanno sul davanzale all'ottavo piano. Quindi spesso occorre un intervento coordinato da parte delle forze dell'ordine. Se questa persona, quando questa persona viene presa, viene portata in ospedale viene sottoposta ancora una volta a una visita da parte del medico accertante dell'SPDC, che deve essere uno specialista, cioè mentre chi propone, chi convalida possono anche non essere specialisti, e questo è ovvio, in un paese di montagna di notte un medico qualsiasi che si trovi a intervenire, se c'è uno stato di necessità e un'emergenza reale, può proporre al sindaco questo passo formale. Però nel momento in cui arriva in un reparto psichiatrico, il paziente deve essere visitato da un terzo medico, il quale ha ancora la facoltà di bloccare tutto il provvedimento. A me in 20 anni è successo una sola volta. E dopodiché il paziente viene ammesso all'interno del reparto, e all'interno di queste condizioni può essere, soltanto all'interno di tutte queste condizioni, può essere praticata una terapia anche contro la sua volontà. Tutto l'incartamento viene poi trasmesso entro 48 ore al giudice tutelare, il quale, sia a richiesta sia autonomamente, può disporre una serie di accertamenti relativamente alla legittimità delle pratiche che sono state adottate. Quindi, tutto sommato, con la legge 180 vengono posti una serie notevole di paletti, di controlli, a garanzia della, a garanzia dell'arbitrarietà nell'effettuare ricoveri contro la volontà delle persone. E questa legge fa dire, dopo un po' di tempo, a Giovanni Gervis: malgrado errori e ritardi, la situazione attuale è molto migliore di quella di un libro che ha scritto con Gilberto Corbellini, si intitola, un librettino prezioso, si intitolava Razionalità negata, ed è un dialogo tra Gilberto Corbellini, che è uno scienziato, è uno storico della medicina, un medico comunque, e Giovanni Gervis, che ha sempre avuto una posizione, diciamo, non troppo ideologica, ma di grande importanza dal 1970 a oggi. E Corbellini fondamentalmente discute con Gervis di come sono andate le cose in questi 30 anni. Un libretto prezioso. Malgrado, Gervis a un certo punto gli dice a Corbellini: malgrado errori e ritardi, la situazione attuale è molto migliore di quella di 30 anni fa ed è incomparabilmente migliore di quella di 40 o 50 anni or sono. Gli strumenti organizzativi e clinici di difesa e promozione della salute mentale a disposizione della popolazione sono assai più efficaci. La sensibilità dei medici e degli altri operatori ai problemi psicologici e sociali è maturata. C'è una maggiore attenzione verso la tematica psicoterapeutica e psicodinamica in particolare. Gli orientamenti culturali e scientifici degli ambienti di vertice cominciano ad essere concordi. Gervis fa notare anche che, secondo i dati più recenti, nel 2007 i pazienti che vivono nei residui manicomiali non sono più di 2000 in tutta Italia. E soprattutto, per tornare alla questione del controllo sociale, che nel corso del processo di deistituzionalizzazione non ci sono stati incrementi di crimini commessi dai malati di mente e i pazienti ricoverati in ospedale psichiatrico giudiziario non sono aumentati dal 1980 a oggi. E questa è una notazione estremamente importante. Intanto perché rappresenta la realtà vera. I malati di mente non delinquono mediamente più che la popolazione generale. Poi ci vogliamo raccontare che per ammazzare un figlio, per ammazzare una moglie bisogna essere matti, però è anche vero che quando c'è un fatto di sangue la polizia mette sotto controllo i telefonini dei parenti in primo grado. Perché al 95% l'assassino è tra il padre, la madre, il figlio, la nonna. E quindi, come dire, è un problema che viene addossato ai matti, no? Perché poi quando non stanno bene i giornali sono pieni di titoli, però è anche vero che la famiglia ammazza più della mafia e dell'andrangheta messa insieme in Italia. È vero anche una cosa, che questa territorializzazione dell'assistenza, questi cambiamenti di paradigma, no? Per cui, penso, attualmente il centro di igiene mentale è diventato centro di salute mentale, il dipartimento di psichiatria è diventato dipartimento di salute mentale, le operazioni che noi facciamo, anche culturali, riguardano la promozione e la tutela della salute mentale. Hanno fatto in modo che le persone si rivolgano a noi con più serenità, con minor peso dello stigma, eccetera, e quindi spesso, in qualche maniera, per esempio, nell'ambito delle gravi sindrome depressive, riusciamo a intervenire prima che succedano fatti di sangue. È anche vera un'altra cosa, che viene spesso sottaciuta, e non so, non riesco a capire per quale motivo, che siccome il manicomio, l'ingresso era dettato dall'autorità di pubblica sicurezza. Nel 90% dei casi l'ingresso in manicomio era consecutivo al delitto, quindi non è che mandavano in manicomio in maniera preventiva, no? Quindi occorreva che io dessi la coltellata a qualcuno per strada per poi essere associato all'istituto manicomiale con mandato da parte della pubblica sicurezza. Adesso quindi tutto questo aspetto preventivo, in qualche maniera, tutto questo agitarsi intorno ai centri di igiene mentale di persone preoccupate perché c'è il vicino del piano di sopra, perché c'è il nipote, perché c'è un figlio di una sorella che dà segni di squilibrio, e il fatto che noi riusciamo a intervenire molto spesso anche con buoni esiti ha in qualche maniera contenuto questa esplosione temuta dal punto di vista della società di un incremento dei crimini da parte dei malati di mente. Mi fate qualche domanda così mi riposo un attimo? Se ci sono, poi se non vado avanti. Io vorrei fare una domanda, che è giusto un approfondimento sulla legge 180, che si chiama legge Basaglia, però è a firma Andreo sì. Orsini. Dopo non so ovviamente se è possibile fare un discorso del genere, però qual era il parere di Basaglia sulla legge? Era d'accordo in toto, cioè aveva delle critiche oppure dei punti non trattati, oppure dei punti che ci sono e che... Voi avete visto quello sceneggiato su Basaglia, andato in televisione qualche mese fa? Beh, secondo me dal punto di vista delle atmosfere, non mi appartengono, perché sono arrivato alla psichiatria a babbo morto, diciamo, avevo già fatto tutte le cose importanti. Però i miei colleghi e amici un po' più grandi, quelli che avevano vissuto in prima persona queste cose, tutti quanti sono stati concordi nel dire che quello sceneggiato rifletteva in maniera estremamente accurata le atmosfere di quel tempo. Io credo che Basaglia era una persona e una personalità estremamente controversa, un uomo di genio, che ha lasciato degli scritti frammentari, quindi non ha lasciato un corpo di pensieri unitario, che si è trovato tra due fuochi e secondo me ha scelto quello saggiamente, quello che poteva essere il male minore, cioè si è in qualche maniera consegnato nelle mani dell'antipsichiatria pur di riuscire a ottenere la chiusura dei manicomi. Però credo che c'erano tutta una serie di problematiche che a Basaglia, che era un medico di grande valore, non potevano sfuggire, e che nello sceneggiato peraltro si vedono in alcuni momenti. Per esempio, questa idea che la follia, la malattia di mente in una società libera, democratica, non era possibile. È un'idea contraddetta quotidianamente. Le forme più gravi di follia, per quanto ci riguarda, sono appannaggio di famiglie benestanti, sane, serene, eccetera, mentre abbiamo ormai famiglie di pazienti molto gravi che fanno figli, ingegneri, persone politici, persone in gamba. Quindi, come dire, c'è un dato strutturale del quale conosciamo, si comincia a conoscere qualcosa, conosciamo poco, per cui esiste, materialmente esiste, ed è per molti versi indipendente dal contesto sociale. Su questa cosa io credo che, per esempio, Basaglia rimendicava una autorità, ma soprattutto un'autorevolezza da parte del corpo medico rispetto alle spinte politiche. E credo che chi ha fatto l'operazione politica più significativa è stato questo Orsini, come al solito rimane molto sconosciuto, ma credo che riuscì a mediare tra le diverse istanze e a far in qualche maniera approvare questa legge. Io politicamente mi sono simpatici radicali, però l'ostacolo più forte alla legge cosiddetta Basaglia l'avevano posto i radicali, che volevano tutto e subito, e che a questo fine avevano intenzione di indire un referendum. Credo che questo Orsini avesse commissionato un po' alla Berlusconi maniera un sondaggio, e risultava molto chiaro che un referendum sulla chiusura dei manicomi sarebbero andati a votarla il 15-20% degli italiani, e tutti delle classi molto abbienti, e quindi sarebbe stato un referendum fallito che avrebbe mantenuto lo status quo. Sulla base di questa convinzione, questo Orsini e Andreotti fecero in modo di portare avanti nel più breve tempo possibile questa legge e di farla approvare. Quindi, come tutte le cose italiane. Altra cosa importante che dice Gervis in questo libro è che, come molte leggi italiane, finiscono per essere delle leggi di indirizzo. Cioè, sembra quasi lo Stato italiano promulga la 180, affida, come dire, l'ambito psichiatrico della tutela della salute mentale alle regioni, ma non predispone un bel nulla. Per cui ci sono regioni, l'Umbria, l'Emilia Romagna, la gran parte delle regioni del nord, dove questa legge è approvata anche grazie a una ricchezza maggiore e a una compattezza ideologica, possiamo dire che ha trovato piena applicazione, e regioni come la Calabria, da cui io provengo, la Campania, la Sicilia, la gran parte del sud Italia, dove anche in relazione all'esistenza di grandissimi interessi privati questa legge non è stata applicata se non nei minimi termini, insomma. Ed è ovvio, se qua c'è in Umbria, a Perugia, c'è un partito comunista forte, c'è una Democrazia Cristiana forte, non ci sono strutture private, e quindi c'è una battaglia ideologica rispetto alla chiusura del manicomio, ma il manicomio si riesce a chiudere, si riesce a pensare a forme alternative, perché chiudere il manicomio vuol dire liberare, a quei tempi voleva dire liberare un'infinità di risorse per la psichiatria che potevano essere spese in forme di cura alternative. Se in Calabria non c'è manco il manicomio, ma ci sono 10 istituti privati di detenzione, perché di questo si parla, è ovvio, e non ci sono, e quindi quei soldi non sono già indirizzati e già finalizzati, è molto più difficile proporre delle forme di cura alternative, e quindi è molto più facile che le forme di cura standard in qualche maniera sono andate avanti. Su questo devo dire che la legge, bloccando in qualche modo i ricoveri nelle strutture pubbliche e nelle strutture private, è stata lungimirante, perché anche adesso, anche negli anni successivi, anche nelle regioni meno perspicaci, diciamo, devo dire così, da questo punto di vista, l'ingresso in questi istituti di asilo e di ricovero era piuttosto complicato rispetto a quanto non fosse in passato, e questo è ovvio, perché se il ricovero non lo dispone più l'autorità giudiziaria, non lo dispone più il direttore del manicomio, ma lo dispone soprattutto contro la volontà delle persone, del sindaco, continua a pensare che le forme di garanzia sociali sono maggiori. Allora, problemi. Ho fatto una lista di problemi, perché ce ne sono tanti. Sono interni alla psichiatria, in parte sono esterni. Il budget, ne abbiamo parlato prima. Da quando io sono, pochi mesi, da settembre scorso che sono responsabile a Spoleto, come ho la laurea in ragioneria, perché mi sono messo a fare i conti e ho visto che noi Io di matematica non ci capisco nulla, però sono somaro, per cui mi metto lì e mi metto a studiare i numeri uno per uno, ci divento cieco. E ho visto che noi di budget non ce l'abbiamo assolutamente uno. In sede di controllo, ormai nelle aziende sanitarie si va a parlare col direttore generale, si dice quello che facciamo, quello che vogliamo fare, quanto abbiamo speso, quanto dobbiamo spendere, quanto ci serve, e si contratta. Per il mio CIM avevamo l'anno scorso un budget farmaci di 238.000 euro, ne abbiamo spesi 259.000 nel 2009. E c'è stata tutta una contrattazione per cui mi hanno affibbiato 245.000 euro di medicine, quindi io ci ho rimesso 10.000 euro di farmaci per il 2010. Sulla qualcosa non ho protestato, perché mi va anche bene, perché può essere uno stimolo in più a rivedere alcune terapie, e questo è un altro dei problemi di cui voglio parlare, che vanno avanti per anni. In una delle mie prime visite al manicomio di Perugia, vidi un tizio, sempre per questioni, no, del budget, sul capitolo farmaci manicomio c'era una spesa all'epoca straordinaria, che ne so, su un paziente 30 milioni, era una cosa fuori da ogni logica. Ma che medicina gli fate a questo qua? E cominciamo a scartabellare le cartelle. Allora, questo tizio 7 anni prima aveva avuto un ascesso dentale e il medico di famiglia gli aveva prescritto una fiala di antibiotico, una fiala antibiotico, appunto l'antibiotico. Oh, gli hanno fatto l'antibiotico per 7 anni. Tutti i giorni, perché su quelle cartelle si metteva una medicina e poi non veniva più levata. Questo tizio si è fatto per 7 anni, tutte le sere faceva la fiala antibiotico, con dei co che venne fuori per una questione di costi, perché non mi ricordo il Roche, era qualcosa che all'epoca costava. E nessuno che si chiedeva come mai un reparto del manicomio di Perugia chiedevano 365 fiale antibiotico all'anno. Sempre, e questo qui per 7 anni, 365 giorni all'anno si faceva sta fiala antibiotica. Quindi avere anche una riduzione sul consumo, sul budget dei farmaci può essere utile per rivedere alcune terapie, perché nei nostri pazienti è facile essere distratti con i nostri pazienti, quindi magari terapie date oggi poi possono andare avanti per i prossimi 10 anni. Un altro problema è dato dal numero dei posti letto negli ospedali generali dedicati al trattamento degli stati acuti. Lo stato acuto psichiatrico esiste, è un disturbo estremamente serio. È un disturbo che non è detto che sia psichiatrico, perché uno stato di agitazione psicomotoria, un accesso di mania, una manifestazione di tipo catatonico, possono, al 99% sono problemi psichiatrici, ma possono avere cause tossiche, possono avere cause infettive, possono avere cause endocrine, eccetera, per cui è necessario in quella fase stare attenti. Un paio di mesi fa, a Campello, sul Clitunno, il ragioniere di una impresetta locale ha cominciato a girare, invece di fare i conti, un uomo di 55 anni, peraltro ben voluto, stimato da tutti quanti, ha cominciato a girare dentro l'azienda con un carrello sollevatore cantando, creando ovviamente un discreto panico, per cui è stato ricoverato in trattamento sanitario obbligatorio. E questo signore aveva una tirotossicosi, cioè un disturbo acuto della ghiandola tiroidea con immissione massiva di ormoni tiroidei nel sangue, che può determinare degli stati clinici del tutto assimilabili alla mania acuta. Per fortuna, in un reparto di psichiatria inserito nel contesto di un ospedale generale, entra una persona di 55 anni senza storia psichiatrica alle spalle, con un attacco di mania si fanno anche tutta una serie di accertamenti per cui questo è entrato in TSO ed è uscito con una prescrizione di farmaci antitiroidei. Il numero dei posti letto però di questi stati acuti negli ospedali generali è assai ristretto. Il piano sanitario nazionale prevede un posto letto ogni 10.000 abitanti o 0,7 ogni 10.000 abitanti nel peggiore dei casi. Quindi per quanto riguarda l'Umbria ci dovremmo muovere tra i 60 e i 40, tra i 45 e i 60 posti letto. Attualmente in tutta l'Umbria, dove non esistono peraltro strutture private, ci sono poco più di 20 posti letto. Quindi è chiaro che i ricoveri sono affannosi, le persone devono uscire magari prima che sia stato completato l'iter diagnostico, cioè, ci sono tutta, i ricoveri spesso qualche volta sono in sovrannumero, per cui si creano anche situazioni non piacevoli dal punto di vista del comfort alberghiero, e per i nostri pazienti invece il comfort alberghiero è fondamentale. Quindi da questo punto di vista bisognerà che noi ci lavoriamo attentamente per incrementare questo numero di posti letto, che secondo me è rimasto basso proprio in reazione all'ideologia manicomiale che privilegiava e premiava il posto letto. Nella psichiatria, dicevamo prima, c'è un'eccessiva ideologizzazione. Devi stare attento quando parli e ci sono 10 psichiatri, devi stare attento a quello che dici, perché se poco poco ti sospettano di essere biologista o poco poco ti sospettano di essere psicologista o lacaniano o freudiano o quello che va, succede un pandemonio anche per frasi magari di o commenti di scarsa entità. Quindi in genere finiamo per litigare tra noi su questioni ideologiche e di poco conto e perdiamo un po' di vista quelli che possono essere invece i problemi più generali e più importanti a mio parere, che riguardano invece la complessiva distribuzione e allocazione delle risorse. La scarsa attenzione alla cronicità quieta. Noi non è che ci siamo del tutto disimpegnati da questo obbligo del controllo sociale. Per cui vogliamo dire in carenza di risorse, senza personale adeguato, senza se in molti posti. Se un matto non dà fastidio, rimane lì, nessuno se ne prende cura. Cioè, se non compie gesti clamorosi, se non fa confusione, se dorme la notte, eccetera, poi se parla tutto il giorno col Mossad via telepatica e non rompe le balle, nessuno se ne occupa, e qui c'è una forma di sofferenza atroce che viene completamente tralasciata. E ancora di più la scarsa attitudine degli psichiatri a confrontarsi tra loro anche sui numeri, non solo sulle ideologie ma anche sui numeri. Ad oggi sono 30 anni di psichiatria, possiamo dire 30 più anni di psichiatria rinnovata, noi sappiamo che ci sono un sacco di cose che aiutano. Sappiamo che ci sono un sacco di cose che funzionano così così, sappiamo che ci sono un sacco di cose che non servono assolutamente a niente. Una valutazione degli esiti è importante, confrontarsi sui numeri, cercare di capire in maniera serena che cosa fa bene, che cosa non fa nulla, che cosa fa male, è fondamentale, perché altrimenti si rischia come di una super offerta che confonde le idee a noi e confonde le idee ai nostri pazienti, senza che abbiamo chiaro che cosa poi effettivamente funziona e che cosa gli abbia fatto bene. Io personalmente vi dico qual è un'ulteriore difficoltà e che è veramente difficile da affrontare, è la indimissibilità dei nostri pazienti, apparente. Cioè, mentre se noi andiamo dall'ortopedico, dall'otorino, in oncologia, dove pare, a un certo momento arriva qualcuno che scrive una lettera di dimissione e dice questo non c'ha più niente, o questo non c'è più niente da fare, comunque viene dimesso, sembra che se uno entra nell'orbita della psichiatria poi ci deve stare a vita, e questo è il timore dei pazienti, di molti pazienti che non vogliono avere a che fare con noi, perché dice: una volta che entro lì sono finito, ci devo stare per tutta la vita. Però è anche la richiesta, quando poi le persone vengono da noi, per cui diventa difficilissimo, soprattutto nella pratica pubblica, diventa difficilissimo, come dire, dire a una persona: guarda, non hai più bisogno di nulla. Io mi trovo in una grandissima difficoltà, che è una difficoltà anche mentale. Vi dicevo di Spoleto. Sono arrivato a Spoleto, ho trovato un archivio, dico: quante cartelle abbiamo nell'archivio? 5.270, mi dice il capo intervento. Dico: caspita, il bacino d'utenza del CIM di Spoleto è di circa 60.000 persone, vediamo il 10% della popolazione, se li mettiamo tutti insieme siamo quasi, siamo più forti della Lega. Però è un dato impossibile, perché un CIM che funzioni bene ha un dato di prenotazione, di penetrazione nella popolazione generale compreso tra l'1 e 1 e il 2,5%, per cui sto 10, o tutti i matti del mondo si erano trasferiti a Spoleto, oppure era un dato assolutamente impensabile. Ha detto: fatemi vedere queste cartelle. Beh, mi credete, ho trovato cartelle alla cartella numero 1, 1974-1975, e appresso a quello montagne di cartelle di persone che erano magari venute lì una volta per chiedere informazioni. Ho trovato le cartelle di una scuola, cioè di tutti i ragazzini di una scuola elementare. C'era uno scaffale, c'erano 350 cartelle che stavano male tutta la scuola, erano andati a fare un test, e quindi poi avevano fatto cartelle per tutti. Adesso ci stiamo rimettendo mano, sta venendo fuori una cifra accettabile. Gli exit poll mi dicono che dovremmo avere sulle 700 cartelle, che è una cifra reale, comprensibile. Però questo è il nostro reale bacino d'utenza, non sono 5.000 e passa. E su 700 probabilmente riusciremo. Esistono tutte le procedure che volete, l'accoglienza, cioè che cosa bisogna fare, no? La procedura è un CIM, che cosa vado io, busso, cosa deve fare il CIM? Ci vuole uno che ti parla, che ti spiega, che ti prende un appuntamento, cioè. C'è la procedura della presa in carico, della valutazione, eccetera, eccetera. Nei CIM non c'è la procedura della dimissione, non esiste. Ma non esiste qui, ma non esiste in Lombardia, non esiste da nessuna parte. Cioè nessuno si è mai preoccupato del fatto che ci sono tutta una serie di questioni psichiatriche che al giorno d'oggi possono considerarsi delle malattie, diciamo tra virgolette, normali, per cui non solo è lecito, ma è estremamente opportuno dimettere le persone. Se io ho un episodio depressivo reattivo a un lutto, perché devo risultare in carico al CIM di Spoleto per 20 anni? Mi curate questo episodio depressivo, generalmente 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi, 1 anno nei casi complicati, dopodiché io ritorno pienamente alla mia autonomia e libertà, anche poi parliamo di autonomia e di libertà mentale, perché non abbiamo nessuna, per fortuna, non è che se uno viene al CIM schedato, come ci dicono i nostri pazienti. E quindi, per esempio, lavorare anche dal punto di vista concettuale sul fatto che il disturbo di mente, dal disturbo mentale, si può guarire, se vogliamo usare questa parola che noi non usiamo mai, secondo me anche ha ragione, e quindi una persona assistita magari anche per un periodo della sua vita, poi può tornare integralmente alla cura di se stesso e delle sue attività, questo è un altro problema importante. Le pensioni di invalidità. Ultimamente, e anche questa è buffa, no, da un certo punto di vista, noi abbiamo avuto dei pazienti che pur avendo goduto il beneficio pensionistico per una certa fase della loro vita, per malattia, a un certo momento venire in ambulatorio e ponevano seriamente la questione. Dice, io vorrei riprendere la macchina, riprendere, sapete, il certificato di invalidità per accompagnamento si conclude con una formula, il paziente non è in grado di attendere le attività quotidiane della vita e necessita pertanto di cura e assistenza continua. Adesso che incrociano, prima non succedeva, ma adesso che incrociano i dati, uno con un 100% di invalidità più accompagnamento lo manda a fare la visita alla patente, non gliela danno perché dice come se c'hai necessità di assistenza per gli atti quotidiani, può guidare. Il porto d'armi glielo levano, ci sono tutta una serie di questioni rispetto alle quali diventa anche problematico beneficiare di questa cosa. Quindi noi cominciamo ad avere dei pazienti che dopo un certo periodo di tempo, stando obiettivamente meglio, chiedono la revisione del loro accompagnamento, quindi il declassamento. Dice, io non ho più bisogno dell'accompagnamento perché ho trovato un posto di lavoro, quindi mi mantengo, sto meglio. Beh, le prime volte ce le dovevamo accompagnare. Cioè, la commissione di accertamento di invalidità, no? Che in genere sono un po' stronzi, stanno lì a bere i cavilli per risparmiare qualcosa. Quando andavano questi e chiedevano la revisione per la riduzione del beneficio, ce li rimandavano indietro chiedendoci un'ulteriore certificazione perché gli sembravano più matti di prima, visto che non volevano neanche il beneficio pensionistico. E ci toccava accompagnarli e dire: guarda, effettivamente questa persona sta meglio, si è curata, ha trovato un lavoro, gli serve la macchina per andare a lavorare, levagli sto cavolo d'accompagnamento che lo rimandiamo alle patenti, a riprendere la patente. Io penso che però queste cose messe in linea, messe in riga, adeguatamente rappresentate a platee non interne. Il problema principale della psichiatria è che la nostra è una storia autoreferenziale. Ci portavano le persone, spesso contro la loro volontà, si chiudeva il portone e dopo non rendevamo conto a nessuno di quello che facevamo e di quello che non facevamo. L'operare della psichiatria è un operare politico, nel senso nobile del termine. Noi dobbiamo stare in mezzo alla società ed è opportuno che la società sia presente nei luoghi di cura della psichiatria. Noi abbiamo bisogno continuo di interscambi, abbiamo bisogno continuo di qualcuno che ci sorvegli, in qualche modo, lo dico in termini buoni, non c'è solo un sorvegliare da poliziotto, c'è anche un sorvegliare curioso da antropologo, da etnologo. Di gente che ci dice e ci dà dei feedback su quello che stiamo facendo. Se noi riusciamo a rappresentare adeguatamente questa cosa ai diversi contesti sociali, probabilmente ci possiamo arricchire molto e credo che quando noi riusciamo poi in buona fede anche a raccontare quello che facciamo e quello che non facciamo, anche la società, il resto della società, in qualche maniera si fa un'idea un po' diversa rispetto a quello che è stato il terrore del posto con le mura chiuse, dove entravi, non si sapeva quello che accadeva e presumibilmente non uscivi più. Vi ringrazio per l'attenzione. Io ti avrei una domanda, se posso. Prima quando c'erano i manicomi, se uno entrava volontariamente, quando veniva accettato, quando veniva preso in carico, diciamo, c'era la comunicazione dell'autorità, no? E lo stesso se veniva preso direttamente dal prefetto, dunque credo dalla polizia a sto punto, no? E oggi invece qual è il rapporto tra autorità mediche, tra i centri igiene mentale oppure i servizi psichiatrici e le autorità? C'è un collegamento è meno diretto? Come funziona? Guardate, questa è una bella domanda e si riallaccia un po' alla cosa che stavo dicendo prima e alla necessità che noi non siamo lasciati da soli. Intanto dal punto di vista formale, per quanto riguarda la psichiatria, valgono le stesse identiche regole di tutti gli altri ambiti medici, per cui noi siamo soggetti al segreto professionale, non ci può essere trasmissione di informazioni, tantomeno nei confronti dell'autorità giudiziaria, se non dopo, come dire, dopo il consenso informato e favorevole da parte del paziente. Però noi attualmente ci muoviamo nella, vorrei dire, abbiamo soprattutto il problema opposto, cioè che se c'è una persona che sta male e ci chiamano, i carabinieri non fanno i carabinieri, i poliziotti non fanno i poliziotti e dobbiamo fare tutto noi, e questo non va bene. Cioè, se io per strada do uno schiaffone a una vecchietta, arrivano i carabinieri e mi prendono. E poi magari mi portano in questura, poi lì se do de matto, come si dice, chiamano uno psichiatra per una visita. Se lo fa un matto conosciuto, i carabinieri non intervengono. La polizia non interviene, chiamano uno psichiatra. Uno psichiatra non ha nessuna capacità e possibilità di controllo rispetto, per esempio, a uno che ha l'accetta in mano. Grazie a Dio c'era un pistola, c'era un manetto. Allora, quello che dico è che in questo momento è necessario che ci siano delle forme di raccordo, per cui, indipendentemente da tutto, se c'è un episodio di discontrollo comportamentale, i carabinieri intervengono e facciano i carabinieri. Invece noi troviamo pattuglie di carabinieri, psicologi raffinatissimi che parlano per ore con queste persone e poi a noi ci tocca fare i carabinieri e dire: guardate, questo bisogna ricoverarlo perché è andata bene, c'ha, no, è intossicato da cocaina e c'ha 7 pistole in casa, anche soprattutto per sua tutela tocca ricoverarlo una settimana finché non è passato questo stato di mania acuta. Ma è difficile convincerli, per esempio, intervenire in queste situazioni. Quindi noi rischiamo paradossalmente l'abbandono, laddove invece la presenza delle forze dell'ordine, per esempio, garantirebbe tutti e soprattutto garantisce i malati. Altra cosa da dire è che generalmente i nostri malati, che tutto sono meno che fessi, quando sono presenti le forze dell'ordine si sentono molto più garantiti. Voglio dire, un delirante che ha paura per la sua incolumità fisica, se vede me e due infermieri, così può pensare pure che siamo i sicari mandati lì per farlo fuori. Ma se vede 4 persone in divisa dal carabiniere, generalmente si tranquillizza, perché anche nelle condizioni acute di malattia rimangono, no, tutta una serie di imprinting dal punto di vista della funzione sociale, per cui se ci sono le forze dell'ordine, le persone generalmente si tranquillizzano e non c'è bisogno di colluttazione. Noi le colluttazioni con i malati ce le abbiamo quando siamo da soli, quando ci sono testimoni, quando c'è il pubblico, quando ci sono i carabinieri, cioè quando la società è rappresentata, non ci sono episodi di violenza. Se ho risposto alla domanda. Sì. Se non ci sono altre domande, vi ringrazio e vi faccio i complimenti per questa iniziativa, mi sembra importante, sembra anche un ruolo propositivo rispetto a temi che se no rischiano di essere trascurati, che invece sono fondanti. Corretta, presenza corretta da tutti i punti di vista della psichiatria nella società è secondo me uno dei bastioni, così come una presenza scorretta, imperiosa, nascosta della psichiatria è quanto di peggio. Quindi questa possibilità di socializzare le cose che si fanno, quello che si fa, di avere dei rimandi, eventualmente di avere dei correttivi. Perché se stai chiuso in un posto e sei tu da solo e fai, alla fine ti senti il Padre Eterno, si poteva fare, mentre ti confronti con altri che ti dicono che è possibile fare anche in un altro modo, magari stai sbagliando, sei in grado di correggere le pratiche in modo più utili per tutti. Va bene. Arrivederci.